tutti ridono, mentre tutti ridono, io mi piego come un paio, mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, me ne vado come un paio, mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, io mi piego come un paio, mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, me ne vado come un paio. Così tanto il tempo che sul pavimento lascio un solco storto, gordo, porco. L'altra guanza nel momento in cui mi accorgo che il solito stronzo si comporta da bifolco. Calo un altro porco, troppo aspetta in volto con la fotta tanta. Qua si fan chilometri, anche se la benda manca. Tutti con la faccia bianca disfatta. La situazione è marcia con la marcia che gratta. Al volante una persona distratta, la volante che a fianco ti passa. Se si guarda tira giù la targa che si scappa. Fai come farebbe il blitz quando un muro tagga. Oppure quando danza su ciò che ci passa manca. Tocca pure questa volta andare a briglia sciolta. Se sta roba non ti piglia sbocca che sbocca mia volta. Sicuro zero svolta ma un cazzo in culo ogni volta. La gente viene va rimane chi davvero conta. Detto questo penso al peggio nel momento del parcheggio. La situazione pesa ma l'ascesa sta correggio. Lui ci crede così tanto che non sale in sei. Col guardrail tra i più cari amici miei. Voi solidi argomenti per le solite peste. Noi soliti agli alcolici, soliti a ber sciocchezze. Pendete dalle labbra di un'oca, dal becco giallo oca. Qua si ridon dietro, noi ci ridiamo sopra. Mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, io mi piego come un paio. Mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, me ne vado come un paio. Mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, io mi piego come un paio. Mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, me ne vado come un paio. Capo premo forte con i regas che lo spingono. Capovolto ogni equilibrio, qua si viaggia in bilico. Questo che si beve pure l'ultimo spicciolo. Fra ma sono tutti grandi oppure sto centro è piccolo. Che fuori perimetro, dentro allo spiraglio. Da ste parti non ci giro, siamo un cazzo di bersaglio. Troppe pecore, serpenti, vacche allo sbaraglio. Ma i regas se la bailano, voi suonate il sonaglio. Intanto cambio direzione dai signori in ronda. Solo buoni odori qualcuno non li sopporta. Quindi chiudi quella porta, non vedi quanto è sporca. E tu spegni la luce, ingombra la mia ombra. Dai non farla corta, aspetta scanna dal convito. Fanculo chi cammina dritto, ogni stronzo convinto. Che sorride, non si muove e sta bene nel recinto. Ma bel bel, è sempre lo stesso jingle. Douglas, sto giro la facciamo enorme. Dove tutto resta fermo, l'hip hop traccia le impronte. Occhi accesi, la nebbia non ci confonde. Si scompare nel taxi bianco più forte delle bombe. Diretto dal ponte, che sia sopra o sotto. Lo sbirro guarda storto perché in tasca ce l'ho gordo. Sali a bordo, ti porto nei più loschi boschi. Vecchio noi siamo sempre qui, siamo nascosti. Mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, io mi piego come un paio. Mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, me ne vado come un paio. Mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, io mi piego come un paio. Mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, mentre tutti ridono, me ne vado come un paio.